certamente dagli enti locali sono emersi degli indirizzi che poi hanno avuto delle criticità, in particolare quello di crescere per acquisizione di altre banche e di mantenere allo stesso tempo da parte della Fondazione il 51% del controllo sulla banca. Evidentemente la strategia di acquisizione è stata molto dispendiosa e, al di là degli aspetti che dovrà chiarire la magistratura, ha comunque messo in difficoltà la Fondazione, che avrebbe dovuto diluirsi, andare al di sotto del 50% e non indebitarsi per mantenere il controllo. Questo è stato il problema degli indirizzi che sono stati dati dagli enti locali, ma che la Fondazione, nella sua autonomia, in base alla legislazione vigente, evidentemente poteva attuare anche in modo diverso, senza essere ovviamente in qualche modo solo diretta conseguenza di questi indirizzi. In questo senso credo che bisognerà riflettere sugli errori di una governance dove autonomia e responsabilità di diversi soggetti non hanno funzionato. Sente che qualcosa di più poteva essere fatto? Sì, certamente, come dicevo prima, si tratta di indirizzi che sono stati elaborati nelle assemblee elettive, che hanno accompagnato le nomine che poi sono state fatte da soggetti monocratici, quale il sindaco e il presidente della provincia, con decisioni che sono state assunte nei consigli all'unanimità, come espressione anche di una volontà della comunità senese che al tempo è sempre stata unita nel preservare il radicamento della banca e il suo legame con la città, che è andato in contrasto con un progetto di crescita che poi si è rivelato eccessivamente dispendioso e che non è stato possibile sostenere da parte della Fondazione. Lei sostenne il ricambio ai vertici, che cosa la indusse? Ma nel momento in cui sono diventato sindaco, la banca scontava un andamento del titolo molto preoccupante, quindi vi era evidentemente qualcosa che il mercato non gradiva dal punto di vista della credibilità complessiva, per cui si spinse la Fondazione ad assumere decisioni importanti, quale quello di arrivare alla fine dell'anno alla sostituzione del direttore generale, alla ricerca di una figura presa dal mercato e non più internamente nella struttura della banca, e successivamente, quando la Fondazione dovette operare il rinnovo del Consiglio, la spinta che venne dal Comune fu quella di operare un rinnovamento totale e di portare anche lì delle competenze che, unite a quelle dell'amministratore delegato, costruissero una governance totalmente nuova che dasse al mercato, alla vigilanza e anche ovviamente ai dipendenti della banca un segnale molto chiaro di cambiamento netto e di cesura con il passato. È grazie a questo nuovo management anche che alcuni episodi gravissimi sono emersi, e io credo che dobbiamo avere fiducia che nella svolta che abbiamo già operato. Vorrei tornare a riflettere su quelli che sono stati i nostri errori, assumermi naturalmente le responsabilità politiche, invitare molti altri soggetti a fare altrettanto, che in questo momento si stanno nascondendo. A chi si riferisce? Beh, certamente io sono stato sindaco per 10 mesi, ci sono stati altri amministratori pubblici prima di me, anzi in un periodo sono stato parlamentare, quindi sono stato anche più distante da Siena, e quindi ci sono altri che forse avrebbero dovuto avere una presenza più vigile e un controllo più efficace su quello che stava succedendo in questa città. Non ci sta a fare il capro espiatorio, insomma? Certamente no, e rivendico, anche se questo è avvenuto di recente, di aver contribuito a un forte cambiamento, di averlo pagato di persona. E purtroppo però questo cambiamento è stato pagato soprattutto dalla città, perché chi ha voluto il commissariamento per punire chi ha fatto il cambiamento in realtà poi ha punito la città, perché l'ha sottoposta ad un anno di stallo amministrativo nel mezzo di una crisi economica di questa portata.